22:50 minuti in questo momento, Radio Onda Rossa 25 o'clock dopo prove tecniche di trasmissione. Radio Onda Rossa che ha lanciato la campagna d'abbonamento, anche se forse la campagna che dovremmo lanciare è proprio di andare a vivere fuori dalla metropoli, da questo carcere a cielo aperto. E fra breve ve ne parleremo, così come fra breve vi parleremo della prossima iniziativa a sostegno e sottoscrizione della radio che si terrà al Forte Prenestino venerdì prossimo, già eletto con via descritto un po' come andrà la storia. Ci teniamo perché quello che è l'appello che facciamo al sostegno della radio in tutti questi anni è un appello che tra l'altro ha sempre riscosso la vostra approvazione, ma soprattutto ha fatto vivere la radio grazie al sostegno anche economico che le avete dato. Ecco, nella campagna poi è spiegata abbastanza bene questa cosa. La sottoscrizione per la Radio Onda Rossa in questo momento diventa ancora più urgente e importante per tutta una serie di motivi che vi andremo a indicare. Per ora vi dico che siate all'ascolto appunto di Radio Onda Rossa, che Radio Onda Rossa ha un sito internet www.ondarossa.info, dove andando sul sito è comparso il banner della campagna appunto, e anche in questa maniera andando a leggere quello che è il lancio della campagna capirete di cosa stiamo parlando. Sito della radio che in veste grafica rinnovata da qualche settimana propone anche i podcast delle trasmissioni, delle corrispondenze, dei redazionali più importanti, più salienti che la radio autoproduce durante la sua programmazione, durante il palinsesto settimanale della radio. Insomma, una visitina al sito fatevela, perché ci sono cose interessanti, di tanto in tanto le novità, le iniziative che la radio propone, che vi trovate anche comunque navigando e girando per i media virtuali. La casella di posta elettronica del sottoscritto della trasmissione che state ascoltando è 25oclock@ondarossa.info per le vostre proposte e per gli insulti. Per le vostre comunicazioni alla radio ondarossa@ondarossa.info, il numero che dovete far trillare come fate è lo 06491750 e si illumina in questo senso la regia della illumina di rosso, la regia della radio più rossa che c'è. Io non ci riesco, malgrado la campagna, tutto quanto, a non dire il numero del conto corrente postale della radio. È una roba proprio di DNA, ce l'abbiamo dentro. Quindi 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma. Non si è sentito. Vai. Roma, San Lollo.

ascensore, dietro schermi di lotta, assordate da televisori. Il vento è un uomo buono, il vento è un uomo cattivo, ma dentro la mia civiltà io non respiro. Detto nulla perché della musica che stiamo mandando, perché Radio Onda Rossa è così, è in diretta ma è anche fuori onda. Perché Nazionutta è piena di uno spessore umano, di quelli che ti forgiano l'esistenza. Perciò abbiamo iniziato la puntata con la prima traccia che avete ascoltato mentre parlavamo della campagna di abbonamento, tratta da un lavoro che si chiama, dal titolo evocativo e che ci piace molto, There's a Riot Going On, Io la tengo. Poi siamo passati a un album, no, volevo spendere un'altra parola, è un disco di quelli che al primo ascolto dai la definizione di essere un po' troppo intimista, un po' moscio, insomma, qualcosa che non è che ti dà, poi non c'ha la fantasia che avevano anche le ritmiche più calzanti che avevano le precedenti lavori di Io la tengo, anche un ventaglio di proposte di soluzioni musicali abbastanza ampio. Questo è un disco un po' più piatto, ma che è bellissimo, cioè ascoltato poi in realtà con la dovuta calma che richiede, in realtà presenta proprio tutti quei cromatismi, quelle finezze, quelle sonorità non esplicite ma implicite, insomma, queste tastierine che di tanto in tanto partono, queste parti rumorose di sottofondo, insomma, un disco splendido per una band che avremmo definito un po' di anni fa lo-fi o indie. E che invece ha questo aspetto, ha preso questo aspetto più intimo e interessante. Poi appunto un altro lavoro di quelli che abbiamo presentato qua in radio, proprio in occasione di una delle serate della cospirazione della Rosa Nera, cioè il concerto di Rose Lux, in cui presentarono un disco che era uscito non molto tempo prima, che si chiama Feritoia. Da qui abbiamo ascoltato Terzu Uzala. E adesso siamo approdati, avete ascoltato per intero. You beg and it makes you dry, make you dry, make you dry, make you dry. No Life Sing Her. E questa è In the Mouth of a Desert e loro sono Pavement, forse il loro lavoro più celebre. Slanted and Enchanted. We'll be right back. finisce così, E ci prende perciò la sprovvista, 23-24 minuti primi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli. E prendiamo la tangente. Ci addentriamo in territori che sono quelli della nuova psichedelia. C'è sempre, in ogni epoca, una nuova psichedelia. Nella fattispecie, due giovani non c'erano ai tempi della nostra nuova psichedelia. Stiamo parlando di T.I. Segall, astro, come si dice, emergente, iperproduttivo, ipercinetico. Nella fattispecie T.I. Segall produce nel 2018 un disco con White Fence, altro esponente della psichedelia della costa occidentale degli Stati Uniti. Un disco pieno di splendide successioni, suggestioni. Abbiamo ascoltato la ottava traccia, che si chiama An Odd. E poi ancora in con i modi, con le tonalità della psichedelia che più riscuote, diciamo, favore da parte del pubblico, soprattutto giovane, quindi mischiato a all'indie, comunque ad atmosfere molto trasognanti. Mielose. Però al tempo stesso è un miele acidulo. Stiamo parlando di un'altra formazione degli ultimi 7-8 anni che sta producendo molto, degli australiani, Tame Impala. Dal cui disco del Boh, 2010 dovrebbe essere, quindi questo forse o il primo o il secondo. Abbiamo ascoltato Elephant. E si ritorna invece indietro di parecchi anni, quando c'era un'altra psichedelia fusa con il punk, fusa con la ballata di rock sudista. Tutto un movimento di quegli anni che registrammo proprio qua a Radio Onda Rossa durante le puntate di quella fine anni 80, inizio anni 90. Di cui peraltro abbiamo, insomma sì, faremo uno specialotto di venerdì, dai. Venerdì 15, un po' di ospiti insieme con Blues Power. Ve lo possiamo anticipare e essenzialmente ci immergeremo in quel periodo storico con i vecchi conduttori dello spazio radiofonico che animavamo tanti anni fa. Ecco, dicevo, di quel periodo Giant Sand è forse una delle formazioni più significative, più rilevanti. sempre dal sud degli Stati Uniti, Valley of Rain, che tra l'altro dà una sorta di title track, perché il lavoro si chiamava Return of Valley of Rain. Giant Thunder, Onda Rossa, 25 o'clock. Allora, restiamo, diciamo, siamo restati nel... nell'ambito Giant Sand, infatti abbiamo ascoltato Wilco. Quella era la loro ballata psicotica, Io Satellite. Io Satellite in italiano, Io Satellite si dovrebbe pronunciare o qualcosa del genere, ma noi non... non ci azzardiamo in pronunce che non conosciamo esattamente. Ci viene più facile, dato che Satellite poi tutto sommato è una parola che credo, e qui anche non ci azzardiamo, però dovrebbe essere latina. E allora adesso spostiamo ancora la rotta, il timone di questo lento vagare in fuga. In fuga dai ritmi pressanti, sempre più asfissianti, totalizzanti del consumo e della produzione. Quanti 5 o'clock è l'ora rubata a questi contesti disumani? 06 491 750 2340, il timone adesso lo dirigiamo verso una psichedelia più corposa. Qui andiamo nel doom di Otei da Roma. Dal loro lavoro di un annetto fa, 2018, crediamo di sì, non c'è scritto, comunque dovrebbe essere 2017, che si chiama Garden of God. Questo è Naked God. Hot Hey. Venerdì 8 febbraio, nella cornice delle serate della cospirazione della Rosa Nera, Radio Onda Rossa presenta Artica e Grazia Obliqua in concerto. L'appuntamento per tutti e tutte è al Forte Prenestino, via del Pino, 100 celle. E a proseguire la serata, DJ 7, Dark Wave, Elettronica Industrial, a cura di Elettrodo, in Octibus Panis, Mitte Geyser. La cospirazione della Rosa Nera, Artica in concerto. Au revoir, tanti auguri. oggi, più tardi, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, così recita il manifesto stringatamente. Stop sgomberi. 7 febbraio 2019, ore 15, corteo da metro Garbatella verso la regione Lazio. Stop sgomberi. Zingaretti, dove sei? Stop sfratti. Quindi il corteo di domani per il diritto all'abitare. O meglio, oggi, visto che sono 3 minuti passati dalla mezzanotte. Da Garbatella verso la regione Lazio. E ancora giovedì 7 febbraio strike, spazio pubblico autogestito. Ricordiamo insieme il partigiano Zaccaria con una serata di socialità, musica e memoria. Zaccaria Verucci è stato a fetta partigiana a solo 14 anni, una figura che per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo è di grande rilievo e valore storico, ma soprattutto umano. La sua storia è quella di tanti e tante che si opposero al fascismo e lottarono per cambiare la società, obiettivi questi che Zacca ha perseguito durante tutta la sua vita fino a che ne ha avuto la forza, continuando ad attraversare continuando attraverso le sue parole, la sua militanza, a mantenere vivi i valori della resistenza, della solidarietà e soprattutto la memoria dell'antifascismo. Mostra fotografica il 25 aprile, un giorno a cura di Camera Ops. Ora 20, presentazione e proiezione di Zaccaria Alfredo, 20 minuti, dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione Roma Ollus, in collaborazione con la rete sociale di Casa Albertone. Alle 20.30 cena resistente a cura di Stragitchen. E il ricavato della cena andrà a sostenere la giornata del 25 aprile a Casa Albertone. Incursioni musicali della Lady Tumband, a seguire DJ Set, DJ Iena, Rock and Roll, Surf, Swing. Cube Strike, la bottegaia in funzione. E quando anche l'ultimo di noi non ci sarà più, si racconteranno altre storie. Se tenteranno di manipolare i fatti, beh, resistete per noi, nessun passo indietro. Questo era Zaccaria Verucci. E questi invece, l'ira del baccano. Il loro lavoro dell'altro anno che si chiama Paradox Hourglass. Parte 1, l'ira del baccano, e tutta la lunga apertura del lavoro di 11 minuti. Questa è la seconda parte, quella che stiamo ascoltando sotto la nostra voce. La fichissima Norazor Forcam. Niente rasoio di Occam. C'è poco da tagliare, questa è una tela che vi avvolge, ma non vi stringe, vi fa spaziare. Questi sono l'ira del baccano. We'll be right back. God is an astronaut, e forse questo chiarisce tutto. E dico forse, ci stanno tante teorie complottiste che vorrebbero la vita sulla Terra importata attraverso una migrazione. O forse semplicemente una civilizzazione dell'essere umano eletto a specie, dominante, ma qui le letture di queste ipotesi non solo diventano molto fantasiose, ma alle volte anche un po' pericolose. Fatto sta che è affascinante comunque il nostro rapporto con l'infinito. God is an astronaut, dal Galles, se non diciamo sciocchezze. Ma questa sera andiamo a braccio, quindi prendete con il beneficio dell'inventario, non sempre ci ricordiamo esattamente dove stanno i pezzi sulla scacchiera. Comunque questa era la quarta traccia da questo lavoro di qualche anno fa, del 2013 per l'esattezza, che si chiamava Origins. Thank you. questo è lo stoner che va a raccogliere, a prendere, a farsi suggestionare, a farsi influenzare da tante espressioni. Questa volta Brent Bjork. E il suo gruppo, cioè fatto da Bubble Dupree e Sean Weller, rispettivamente Brent Bjork alla chitarra, al basso, alla batteria, Bubble Dupree alla voce, alle chitarre, al basso, alle percussioni, e se e Sean Weller alla voce. Uscita nel 2018 questa per Brent Bjork, da cui abbiamo ascoltato la fancheggiante Somebody. 22 minuti dopo la mezzanotte, Onda Rossa 25 o'clock. Altri compagni a noi. Lorenzo lo dice pure in uno spot: io vi conosco da 35, i primi 5 anni non c'ero. È uno spot che celebra i 40 anni di Radio Onda Rossa. Lui è uno di quelli che c'ha il rock and roll nel sangue, che gli scorre, anzi forse il sangue non ce l'ha, c'ha solo il rock and roll. Porchissimo, fottutissimo rock and roll. E da un po' di anni milita in questa formazione, quella degli Wendy, con Lorenzo, Mr. Grady, Alessandro, Fabio e Luca. Li abbiamo visti, li abbiamo sentiti qui dagli studi della radio in diretta, proprio in occasione della presentazione di questo lavoro degli Wendy. Idols and Goats. E stasera, non volendo, questo Goats l'abbiamo citato tante tante volte, sempre in forma non proprio edificante, insomma, questo dio che aleggia, che c'è. Ma in fondo ci potrebbe anche non essere, insomma. E comunque non è così edificante. Anzi, in questo caso negli Wendy è proprio qualcosa da evitare. L'idolatria e i dei. E questo è No Values. Nessun valore. Wendy a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. wanna talk about my values. Now I want to talk about my values. My values are freedom and equality and rock and roll. My value is freedom, inequality e rock and roll. We'll be right back. Come, come, come again. Dopo gli splendidi suoni di Dilly Mignanas e la loro motorizzata in Marie, un disco che abbiamo anche qua in radio per sostenere Radio Onda Rossa, partita la campagna abbonamento. €30 per un anno di Radio Onda Rossa. Sul sito della radio www.ondarossa.info cliccate sul banner della campagna, avrete tutte le informazioni del motivo per cui è partita questa campagna della radio. E di come si fa ad aderire, ad abbonarsi a Radio Onda Rossa? Ora sì, al banchetto della radio. Satin Dabby. We're living in a day and age, even in disguise. So take heed of the signs and read between the lines. Please, as you turn each page, look deeper with your mind and see how you perceive and what's really been implied. The deceit organized, conceived and invented. The message cemented. The method to misrepresent, disconnect and suppress us. And we don't reflect or defend, we just let them. It's time to question their antics. Stand up and act quick, take drastic action. We're captive to their tactics, but there's no ransom. We're our own handcuffs, stuck in a rut and a scandal, trapped in the maze. We're the one that they can't handle the taming. Plan your escape, yo, be your own savior. There's no man in cage here to save you. Have your own back, blood and wait. Take heed, brother man, and hear your conscience. What you feel deep down is meaning and substance. Take heed, brother man, and trust your gut, cause you know when you know something's up. Take heed, sister girl, this world isn't full of sin, evil and hurt and please. Take heed, sister girl, don't let them diminish your spirit and worth. Stay strong, devoted, and remain focused. Maintain your emotions and aim to make progress. Know that each moment's yours for the taking. So vacate the slave ship, swim to the shore and embrace the natives. Celebrate freedom, never again take a beating and remain defeated. Always display your feelings and place more meaning into everything, cause it's all relevant. Talk isn't cheap nor expensive, but sure is delicate. So when exploring the element of speech, be gentle and remember that it breathes and spreads with each sentence. So speak with the mean intentions and believe in yourself and strive to flourish. Fight with the trials with might and courage, but smile at the good stuff, the times when life is abundantly won. Take heed, brother man, and hear your conscience. What you feel deep down is meaning and substance. Take heed, brother man, and trust your gut, cause you know when you know something's up. Take heed, sister girl, this world isn't for the sin, evil and hurt and please. Sister girl, don't let them diminish your spirit and worth. Be cautious and consider this. All things are distorted with a hidden twist. Don't call anything reported legitimate and ignore the corporate laws that they implement. Remain disciplined, vigilant and balanced, and never give in to a challenge or limit your passion, your gifts and your talents. Admit that you have them. Don't be embarrassed, be gallant. Practice and be all you can be achieving. Never stand for defeat. Smash the regime. Attack, intervene to track the disease. Cast it and be free and feel healthy again. Your mental can be your most selfless of friends when you're helpless, so it's essential you cleanse for your potential. It's a detrimental event, so don't ever settle for less. Take heed, brother man, and hear your conscience. What you feel deep down is meaning and substance. Take heed, brother man, and trust your gut, cause you know when you know something's up. take heed, sister girl. This world is a full of sin, evil and hurt and please. Take heed, sister girl. Don't let them diminish your spirit and worth. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, Total Anarchy. Il rapper Lixan, giovanottello, album di debutto uscito il 6 aprile 2018. Teachers for suspension, for detention. Like what it do for me? Nothing out of I was just a little one thinking about Mercedes Benz. I didn't really have no friends. Skirt, skirt, skirt, skirt. Hey, what? So what if I hit it? Yeah. For that bit, I for that bit. Yeah. All my bitches fuck with bitches. All my bitches love my bitches. Yeah. Rima in libertà. Abbiamo detto poc'anzi rispetto alla trap, basi semplici, quadrate, dal basso profondo. I say what a bear.

Sticking a Five and Go, Slay for Mods. Come da un po' di puntare a questa parte, ci dispiace solamente che questo lavoro che abbiamo contenga solo 5 tracce, comunque c'è una ricca produzione di Slay for Mods sul tubo e sui vari portali dedicati ai suoni nella rete, nel web. Beh, 50 minuti dopo mezzanotte ce ne andiamo. Vi ricordiamo che quindi vi terrà compagnia la compagna automatica Sonata. Come suona bene. Con le selezioni e le repliche si riprende in diretta alle 8. Con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadini, redazionali della mattinata alle 13, il giornale radio, lo spazio comunicazione a seguire. Tutta scena musica alle 14, Attica Blues alle 16, le schiene del sole alle 17, il Mezzedes del giovedì dalle 18 alle 20, poi lo spazio dedicato al martedì autogestione femminista e lesbiche, Apostasia alle 23, i cuginetti a chiudere, il palinsesto del giovedì. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, che siano le sbarre del carcere, che siano i vari centri di detenzione per migranti sempre più sparpagliati, sempre più relegati. Vere e proprie istituzioni totali di questa epoca in cui si viene reclusi semplicemente per non avere un pezzo di carta vidimato al posto giusto, o semplicemente perché non si ha nulla, perché si è andati via, si è fuggiti, si è scappati, ci si è spostati dai propri territori di origine, evidentemente perché non era possibile fare altrimenti. Quindi noi ci vediamo tutti e tutte al Forte venerdì prossimo, 8 febbraio 2019. Artica e la Glazia Obliqua, nell'ambito delle serate La Cospirazione della Rosa Nera, centro sociale occupato Forte Prenestino, via Federico Irpino 100 Celle, a sostegno di Radio Onda Rossa, DJ 7 a seguire con Edettolo, in Nottibus Panis e Mitter Geisen. Dai a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. dreams, I'll share our dreams under a communist.